La parola di Dio narra la storia di uomini che si sono convertiti dal paganesimo al Dio Trino, come Naaman, il capo dell'esercito del re di Siria, e uomini religiosi, come Saulo da Tarso. Abbiamo pure la storia della conversione di un re molto famoso e potente, la quale rispecchia molto il carattere di una vera resa a Dio. Mi riferisco al re babilonese Nabucodonosor, la cui storia è narrata nel libro di Daniele. Il re Nabucodonosor aveva espugnato Gerusalemme e deportato a Babilonia alcuni giovani di stirpe reale, perché fossero al servizio del re. Tra questi si trovavano Daniele e altri tre giovani ai quali furono dati i nomi di Sadrach, Mesach e Abednego. Poco dopo Nabucodonosor fece un sogno che gli impediva di dormire e ordinò ai suoi saggi di rivelarlo e darne l'interpretazione. Una richiesta realmente unica e disumana, perché il re chiedeva l'impossibile ai suoi saggi, mai nessuno. Infatti aveva preteso tanto dagli uomini, non solo interpretare il sogno, ma anche conoscerne il contenuto. Dato che i savi cercavano di rimandare la risposta, Nabucodonosor decise di farli uccidere tutti, e tra questi, ricordiamolo, si trovavano anche Daniele e i suoi amici. Come Daniele venne a conoscenza dell'ordine del re, si mise in preghiera chiedendo a Dio la rivelazione e l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor. Quando Dio ne esaudì la richiesta, Daniele si presentò davanti al re e raccontò il sogno, dandone anche l'interpretazione. Così leggiamo il seguito del racconto. Allora il re Nabucodonosor cadde sulla sua faccia e si prostrò davanti a Daniele. Quindi ordinò che gli presentassero un'offerta e dell'incenso. Il re parlò a Daniele e disse: «In verità il vostro Dio è il Dio degli dèi, il Signore dei re e il rivelatore dei segreti, poiché tu hai potuto rivelare questo segreto». 2.4647. Molto probabilmente chiunque avrebbe avuto la reazione di Nabucodonosor, perché trovarsi davanti ad uno che non solo interpreta, ma rivela i pensieri della propria mente, è un'esperienza veramente unica. Nabucodonosor rimane sensibilmente colpito e riconosce che il Dio di Israele è il vero Dio, ma nonostante questa confessione il re era ancora molto lontano da una vera conversione. Dobbiamo sempre ricordare che riconoscere la realtà dell'esistenza di un Dio e che questo Dio sia quello degli ebrei e dei cristiani non è un atto di fede che salva. La fede che crede solo in Dio è una fede che rimane a livello diabolico, perché sta scritto nelle sacre scritture che anche i demoni credono che vi sia un solo Dio, ma non per questo sono salvati. Poiché nel sogno Nabucodonosor vide di essere il più grande di tutti i re allora esistenti, fece fare una statua rivestita tutta d'oro, alta più di 30 metri. In seguito fece convocare all'inaugurazione della statua 8 classi di pubblici ufficiali, i satrapi, cioè capi militari, i governatori, cioè gli amministratori civili, i consiglieri, cioè coloro che venivano consultati dalle autorità governative, i tesorieri, cioè coloro gestivano i fondi del regno, i giureconsulti, cioè coloro che amministravano a legge, i magistrati, cioè coloro che giudicavano attenendosi alla legge. Le altre autorità delle province erano probabilmente rappresentate dai subordinati ai militari. Questo spiega perché in seguito, quando i tre amici di Daniele rifiutarono di adorare la statua, Nabucodonosor diventò irritato e furioso minacciandoli di morte. Ma i tre amici di Daniele risposero: «O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in merito a questo. Ecco, il nostro Dio, che serviamo, è in grado di liberarci dalla fornace di fuoco ardente e ci libererà dalla tua mano, o re». 3.1617. Nabucodonosor diventò ancora più furioso. Ordinò di scaldare 7 volte di più una fornace ardente, che li fece gettare dentro dicendo: «Quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano?» Successe però una cosa straordinaria. Nel guardare dentro alla fornace, Nabucodonosor vide 4 uomini che camminavano senza essere bruciati dal fuoco e, dopo aver ordinato ai tre amici di Daniele di uscire, disse: «Benedetto sia il Dio di Sadrach, Mesach, Abednego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servi, che hanno confidato in lui, hanno trasgredito l'ordine del re e hanno esposto i loro corpi alla morte, piuttosto che servire e adorare altro Dio all'infuori dell'oro. Perciò io decreto che chiunque, a qualsiasi popolo, nazione o lingua appartenga, dirà male del Dio di Sadrach, Mesach, Abednego sia tagliato a pezzi e la sua casa sia ridotta in un letamaio, perché non succ. È nessun altro Dio che possa salvare a questo modo. 3:9 è evidente che Nabucodonosor era rimasto scosso di fronte al miracolo, ma era ancora lontano da una vera conversione. Il re, infatti, chiama vero Dio per due volte, il Dio di Sadrach, Mesach, Abednego, ma non si riferisce a lui come al suo Dio. E così anche oggi. Quanta gente riconosce che il Dio dei cristiani è l'unico vero, non confessandolo però come proprio Dio. Queste persone, come Nabucodonosor, sono lontane da una vera conversione. Il re babilonese Nabucodonosor regnò 43 anni, all'incirca intorno al 35° anno del suo regno, ebbe una rivelazione attraverso un altro sogno enigmatico. Da notare come Dio usi anche i pagani o gli increduli per adempiere i suoi progetti, anche se è necessario che ci siano i figli di Dio. Per comprendere le cose, il sogno di Nabucodonosor riguardava un grande albero. Come di consueto chiamò davanti a sé tutti i savi di Babilonia, ai quali questa volta raccontò il sogno perché gliene facessero conoscere l'interpretazione, ma anche questa volta i maghi e gli astrologi non ne furono in grado. Infine si presentò davanti al re Daniele, il quale spiegò il sogno dicendogli che il grande albero lo rappresentava e che sarebbe stato deposto per 7 anni dal suo incarico per poi riprendere il suo posto di re. Proprio per questo Daniele invitò il sovrano ad abbandonare la sua condotta sbagliata, ma Nabucodonosor non ascoltò il consiglio e non si pentì. Conformemente alla visione chiarita da Daniele dopo 12 mesi mentre stava passeggiando sul terrazzo del palazzo, il monarca impazzì. Visse come un animale selvatico, mangiando l'erba come i buoi, ma nessuno prese il suo posto di re, molto probabilmente a causa della profezia di Daniele. Dopo 7 anni, Nabucodonosor riacquistò il senno e in seguito diede la bellissima testimonianza che troviamo scritta nel capitolo 4 del suo libro. Ecco come termina: alla fine di quel tempo, io Nabucodonosor alzai gli occhi al cielo e la mia ragione ritornò, benedissi l'Altissimo e lodai e glorificai colui che vive in eterno, il cui dominio è un dominio eterno e il cui regno dura di generazione in generazione. Tutti gli abitanti della terra, davanti a lui, sono considerati come un nulla e egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli: che cosa fai? In quello stesso tempo mi ritornò la ragione, e per la gloria del mio regno mi furono restituiti la mia maestà e il mio splendore. I miei consiglieri e i miei grandi mi cercarono. E io fui ristabilito nel mio regno, e la mia grandezza fu enormemente accresciuta. Ora, io, Nabucodonosor, lodo, esalto e glorifico il Re del Cielo, perché tutte le sue opere sono verità e le sue vie giustizia. Egli ha il potere di umiliare quelli che camminano superbamente. 4:3, 4:37. L'orgoglio di Nabucodonosor era stato potentemente piegato dall'Eterno. Ed ora, dopo 7 anni di pazzia, aveva riconosciuto che il suo immenso egocentrismo, che la sua gloria e potenza non erano altro che bolle di sapone, e la riuscita o meno della vita dipendeva dal Dio Altissimo, da lui riconosciuto come il Re del Cielo. Il modo di esprimersi di Nabucodonosor non è certamente di stampo neotestamentario o evangelico, ma dobbiamo calarci nella cultura e nell'epoca di allora. Nabucodonosor riconosce che l'Altissimo ha il suo dominio sulla terra, e questo dominio dura per sempre. Riconosce di essere un nulla davanti a Dio e che non ha il diritto di interpellarlo. Infine, Nabucodonosor esalta, glorifica, riconosce che Dio è re, che le sue opere, meno di conseguenza anche la sua pazzia, sono giuste, che è stato umiliato perché era superbo. Queste dichiarazioni, prese nel loro contesto storico e culturale, hanno il sapore di una dichiarazione proveniente da chi si è arreso a Dio completamente. non possiamo parlare di nuova nascita, perché è stato possibile fare questa esperienza solo dopo la morte e la resurrezione di Cristo Gesù, ma possiamo dire che Nabucodonosor si trova ora tra coloro che sono salvati. Forse l'esperienza di Nabucodonosor ci insegna qualcosa di importante. Dopo 2000 anni si predica la necessità di porre fede in Cristo per essere salvati. Questo è giusto e buono perché è il messaggio del Vangelo, ma poiché credere in Cristo rimane per molti un concetto astratto, è opportuno prendere in considerazione l'esperienza di Nabucodonosor. Credere in Cristo produce dei risultati, diversamente è una fede che non salva, o, come dice Giacomo, non è fede. Per comprendere se si ha la vera fede, occorre, come il re Nabucodonosor, riconoscere il proprio orgoglio di aver gestito la propria vita senza averla sottoposta alla volontà di Dio, occorre riconoscere che vi è un solo re e padrone, Gesù Cristo. E infine occorre proclamare, come fece Nabucodonosor, che le opere e le vie di Dio sono giuste, come la salvezza per grazia senza nessun ausilio delle nostre opere. Non è possibile per nessuno credere in Cristo senza sottomettersi alla sua volontà. E sottomettersi alla sua volontà significa liberarsi dei quei riti religiosi che Dio non approva, quali il rosario, la preghiera per i morti, il sacerdozio cattolico romano, la presunta autorità papale. Come per Nabucodonosor, una vera conversione comporta un capovolgimento totale della vita, senza il quale non si entra nel regno di Dio. Gesù ha detto che la porta che conduce al cielo è stretta. Ma come mai, secondo la maggior parte di persone, si va in cielo senza la porta stretta, rappresentata dalla conversione ad una totale, incondizionata arresa a Cristo? Ottobre 2006, Ellero.